Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo il nostro sito radio24.it. All'interno dello stesso, sotto il mio profilo, troverete anche il mio blog Guardie o Ladri e avrete la possibilità di scaricare tutte le puntate di qualunque trasmissione anche via podcast. L'ultima informazione di servizio, l'indirizzo mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, ricorderete che alcune settimane fa abbiamo trattato noi, ma in realtà molti media nazionali, il caso di Roberto Battaglia, un imprenditore casertano che ha denunciato estorsori e, come dire, personaggi appartenenti al clan dei Casalesi, uno di questi arrestato anche nella sua azienda agricola. Questo imprenditore sta conducendo una battaglia personale, ma che coinvolge tutti noi come cittadini italiani, non soltanto contro la criminalità organizzata, ma anche per, una volta vistosi riconosciuto il diritto di avere accesso al fondo antiusura, di avere un nuovo rapporto, come dire, anche nei confronti degli istituti bancari. Perché questo? Perché gli istituti bancari, insieme ovviamente ad altre associazioni, tra cui Confindustria, l'ANCI, Confesercenti e via dicendo, il 31 luglio 2007 hanno stipulato un accordo quadro per la prevenzione dell'usura e il sostegno delle vittime del racket. Ed allora noi, visto che abbiamo seguito la storia e visto che è giusto e doveroso dare, come dire, seguito alla stessa, abbiamo pensato bene di chiamare di nuovo l'imprenditore Battaglia e di chiamare l'associazione delle banche, l'ABI, per avere una risposta su quello che può essere il sostegno che le banche stesse possono dare all'imprenditore Battaglia. L'ABI ci ha indirizzato alcune settimane fa alle singole banche coinvolte nella vicenda che coinvolge appunto Roberto Battaglia. Devo dire che le banche hanno tutte dato una risposta positiva, sono tutte intervenute, non personalmente ma attraverso delle lettere che ci hanno inviato. Tra le altre cose, come sapete, ovviamente il caso è quello di Battaglia, ma molti sono gli imprenditori che, ringraziando Dio, stanno trovando il coraggio di denunciare racket ed estorsioni e che contemporaneamente hanno quindi anche avviato nel tempo dei rapporti leciti e legittimi con le banche, e che sono giustamente un polmone finanziario delle imprese. Ed allora andiamo a sentire la prima risposta della prima banca coinvolta appunto nel caso Battaglia, che è il Monte dei Paschi di Siena. Il rapporto con il signor Roberto Battaglia risale al 1999, anno in cui Banca Monte dei Paschi di Siena ha erogato un finanziamento agrario da ammortizzare in 5 anni attraverso 10 rate semestrali, il tutto attraverso l'applicazione, ai sensi delle leggi speciali vigenti in materia, di un tasso agevolato ben inferiore a quello di mercato. Il cliente è inadempiente sin dal 2000, per cui la vicenda deve ritenersi estranea all'ambito degli accordi di rinegoziazione successivamente concordati in sede ABI. Nonostante questo, nel 2006, MPS Gestione Crediti Banca, società di recupero crediti del gruppo Montepaschi, ha aderito alla proposta di sistemazione a saldo e stralcio del debito formulata dallo stesso cliente. Più precisamente, per venire incontro alle difficoltà del signor Roberto Battaglia, MPS Gestione Crediti Banca ha accettato un rientro graduale del solo 50% del capitale in 24 rate mensili senza interessi, con sacrificio quindi del 50% del capitale e di tutti gli interessi dovuti, impegno al quale l'imprenditore non ha mai fatto fronte. Alla luce della ricostruzione del rapporto, dell'ineccepibilità del credito vantato dalla banca, peraltro piuttosto esiguo, e soprattutto della disponibilità vanamente manifestata al cliente per andare incontro alle sue difficoltà, riteniamo di non dover essere chiamati in causa su vicende rispetto alle quali siamo all'evidenza estranei. MPS Gestione Crediti Banca rimane comunque a disposizione per trovare soluzioni alternative per il superamento della problematica. Saluti, Chiara Galgani, Ufficio Relazioni Istituzionali e con i media. Allora, questa è la risposta di MPS, che dice in buona sostanza, pur essendo il debito nei nostri confronti antecedente alla stipula dell'accordo quadro, noi siamo venuti incontro all'imprenditore Battaglia, abbiamo insieme deciso un piano di rientro, però l'imprenditore Battaglia è inadempiente. Allora, qual è il suo rapporto a questo punto con MPS Battaglia? Buongiorno innanzitutto, e siamo contenti di averlo nuovamente qui con noi. Prego. Buongiorno a tutti. Io volevo appunto specificare quanto segue. L'accordo quadro prevede una collaborazione tra banche e imprenditori è stato firmato già un primo accordo nel 2003, poi successivamente nel 2007, ma comunque anche per rapporti intrapresi prima negli anni precedenti. Quindi ma comunque MPS viene incontro, no? Però, e quindi in ogni caso avalla quello che lei sta dicendo, però dice l'imprenditore Battaglia non ha mai fatto fronte, ecco perché. Allora, quando noi abbiamo cercato di fare questo accordo transattivo, non è assolutamente vero che è stato portato, diciamo, allo stato finale, tant'è vero che poi loro si sono insinuati in tribunale procedendo alle vendite all'incanto insieme alle altre banche. Ora però le dico che in maniera certa abbiamo avuto, dopo la nostra ultima proposta di un accordo transattivo, visto che mi è stato concesso il mutuo dal commissariato antiracket, certo, Monte dei Paschi è stata la prima banca che ha accettato la nostra proposta. Oh, e viva Dio, tanto che la stessa Monte dei Paschi infatti dice rimaniamo a disposizione. Meno male, un piccolo passo in avanti lo abbiamo fatto. Bene, bene così. Il rapporto con le banche dovrebbe essere sempre così chiaro e trasparente. Allora, altra banca coinvolta nel rapporto, del, diciamo così, lungo e tortuoso dell'imprenditore Battaglia e della sua denuncia contro i malavitosi e il clan dei Casalesi. Quindi il momento del rapporto con le banche per rientrare gradualmente dal debito prevede anche un rapporto con Intesa San Paolo. E sentiamo quindi qual è la risposta di Intesa San Paolo quando l'abbiamo chiamata a interloquire con noi. Intesa San Paolo ringrazia la trasmissione Un Abuso al Giorno per averla contattata riguardo la puntata relativa alle vicende del signor Roberto Battaglia. Come Intesa San Paolo facciamo presente che non esiste alcun rapporto di credito con il signor Battaglia in nessuna delle banche facenti parte del gruppo. Infatti tra il 2001 e il 2005 le posizioni creditizie di Roberto Battaglia sono state cedute ad altri istituti nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti in sofferenza che hanno riguardato centinaia di migliaia di soggetti. Giovanni La Barbera, Intesa San Paolo, Direzione Centrale Relazioni Esterne, Ufficio Stampa Centro Sud. Allora Battaglia, un commento breve perché poi abbiamo l'ultima lettera a questo intervento di Intesa San Paolo. Purtroppo questo è un modo, diciamo, anche un po' brutto di raggirare l'ostacolo, perché noi abbiamo avuto diverse riunioni in prefettura a Napoli con dirigenti del gruppo Intesa Banco Napoli San Paolo davanti al viceprefetto di Napoli, il dottore Panico, attuale prefetto di Crotone, ma stiamo ancora aspettando inutilmente le risposte alla nostra proposta. Bene, allora Intesa San Paolo quindi, come dire, ha uno spazio ancora, diciamo così, sicuramente di trattativa. Noi invitiamo ovviamente tutti a fare la propria parte, siamo sicuri che così come ci hanno risposto Intesa San Paolo continuerà a tenere sotto osservazione il caso dell'imprenditore Battaglia, che sta conducendo una, ripeto, una battaglia, scusate il gioco di parole, contro l'illegalità del clan dei Casalesi e degli estorsori e degli usurai che appunto appartenenti a questo clan lo hanno mandato pressoché in rovina un po' per tutti gli imprenditori. La battaglia non è quindi isolata, tant'è che il Viminale gli ha riconosciuto il diritto ad avere accesso al fondo anti-racket e anti-usura. E vediamo ora l'ultima banca che ha avuto rapporti o ha rapporti con l'imprenditore Battaglia. È la Banca Nazionale del Lavoro ed ecco la sua risposta. Facciamo presente che non ci è possibile intervenire in trasmissione per trattare il caso in oggetto. Possiamo comunque confermare che BNL ha sempre dedicato la massima attenzione al cliente, puntando, nel corso degli anni, ad individuare soluzioni di reciproca soddisfazione. Attualmente è in corso di valutazione un'offerta transattiva avanzata dai legali del cliente lo scorso 12 marzo, il cui esito sarà comunicato al più presto. Cordiali saluti, Francesco Chiurco, responsabile servizio Media Relation, Banca Nazionale del Lavoro, gruppo BNP Paribas. Allora Battaglia, questa è la risposta della Banca Nazionale del Lavoro. Dicono, noi non possiamo intervenire in trasmissione perché comunque non abbiamo la possibilità di farlo, però vi diciamo, è in corso con i legali di Battaglia questa trattativa. È vero, no? Infatti è verissimo, perché abbiamo avuto una serie di scambi di lettere tra appunto la BNL e i miei, ci sono stati una serie di scambi di lettere tra la BNL e i miei legali, e attendiamo fiduciosi quanto prima, perché purtroppo incombe la data dell'8 aprile nella quale bisognerà appunto dichiarare quali sono le banche che hanno accettato le nostre proposte, E quindi attendete l'esito della risposta di BNL. Bene, ringrazio il nostro imprenditore Battaglia, di cui continueremo a seguire le vicende. Le banche che hanno partecipato e dato la loro risposta, direi assolutamente costruttiva. Grazie in regia Filippo Aureggi, in studio ad Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.